1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Cari ascoltatori, siamo qua, siete qua su Radio 24. A 24 mattino è il momento di leggere i giornali alle 7:19 minuti, mentre è mercoledì 4 maggio, mentre ci occuperemo di partiti, parleremo se volete anche dell'arresto ovviamente del sindaco di Lodi, del Partito Democratico, questo dopo le 8. E allora dai, buttiamoci in questa lettura. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora ci siamo con i titoli. Intanto il Sole 24 Ore apre sulle banche. Le banche europee affondano le borse. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre l'arresto del sindaco di Lodi è la notizia principale per quasi tutti gli altri quotidiani. Per il Corriere della Sera, la giustizia agita ancora il PD. Questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica, Lodi in carcere, sindaco PD. È l'assedio dei magistrati. Questo è un virgolettato. E il PD teme questo, l'assedio dei magistrati. Per La Stampa, sindaco in manette a un mese dal voto, scatta l'allarme PD. Per Il Messaggero, caso giustizia, arresto scuote il PD. Libero, un arresto al giorno leva Renzi di torno. Per Il Fatto Quotidiano, in galera un altro futuro senatore, il sindaco di Lodi. Il Manifesto invece, tuffo aggravato. C'è la foto di una piscina perché l'arresto è avvenuto per appalti su piscine comunali. L'Unità, alla fine di questa carrellata di titoli, invece ammonisce: nessuna lezione sulla legalità. Questo è il titolo di prima pagina. Il Giornale invece apre sull'immigrazione. Come adesso aprirò anch'io nell'approfondimento della lettura delle notizie, se non ti prendi il profugo, multa da 250.000 euro. Bruxelles studia la maxi penale per chi rifiuta di accogliere i rifugiati. E effettivamente è così, cari ascoltatori. Attenzione, tenetela lì questa maxi multa perché tra poco la vedremo. C'è un'altra notizia che riguarda l'immigrazione e come fronteggiare i costi per l'Unione Europea degli immigrati. Fiorenza Sarzanini lo racconta, pagina 11 del Corriere della Sera. Tassa per gli stranieri che entrano in Europa. Ecco l'ipotesi per finanziare il Migration Compact. E cioè, udite udite, è allo studio una tassa da 50 euro per gli stranieri che entrano in Europa per turismo o lavoro. È una delle soluzioni che l'Unione sta studiando per affrontare l'emergenza legata ai flussi migratori e sostenere così il Migration Compact, proposto dal governo italiano per mettere in piedi un sistema articolato di aiuti agli stati africani da cui partono uomini, donne e bambini che arrivano sulle nostre coste. L'ipotesi è stata formulata dagli specialisti finanziari della Commissione di Bruxelles ed è contenuta in una relazione messa a punto in questi giorni che sarà sottoposta all'esame dei governi. Prevede questa ipotesi il rilascio di un visto per i cittadini residenti negli altri continenti, che potrebbe essere pagato al momento dell'ingresso o in alternativa un contributo di 10 euro sul biglietto aereo. E beh, non sarebbe male, oppure sarebbe molto male, come al solito, risolvere tutto con una tassa a chi? Ai giapponesi, agli asiatici, agli americani, ai sudamericani, agli australiani, anche agli africani che arrivano per lavoro, per business, per turismo. 50 euro a persona come tassa sotto forma di sorta di visto per entrare nell'Unione Europea se arrivi appunto nell'Unione. Questa è l'ipotesi lanciata sul Corriere della Sera e che è presente in questa relazione. Ma torniamo appunto all'altra ipotesi, quella di una mega multa da 250.000 euro per ogni migrante rifiutato dagli stati. Cioè, se gli stati si rifiutano di accogliere un migrante e lo possono fare, l'Unione Europea potrebbe sanzionare con 250.000 euro a ogni persona rifiutata. E effettivamente Andrea Bonanni, e questa è la notizia messa in prima pagina dal giornale e Giuseppe Marino poi approfondisce a pagina 3, su Repubblica Andrea Bonanni lo chiede direttamente a Frans Timmermans, che è il primo vice di Juncker ed è il responsabile per la giustizia della Commissione Europea. Si dice che proporrete di sanzionare i paesi che non rispetteranno la quota di assorbimento, facendo loro pagare 250.000 euro per ogni rifugiato che non viene accolto. È vero? Ed ecco la risposta di Timmermans. La decisione non è ancora presa. La nostra proposta sarà che chi non vuole o non può dimostrare solidarietà accogliendo la sua parte di rifugiati aiuti i paesi che dovranno ospitarle con un pacchetto finanziario che ne faciliti l'accoglienza. Insomma, fa un giro di parole, dice che la decisione non è ancora presa, ma evidentemente la decisione è sul tavolo. Comunque, dice Timmermans, la nostra idea è di proporre un meccanismo per cui se un paese è travolto dall'afflusso di rifugiati scatta la solidarietà automatica e i richiedenti asilo sono ridistribuiti in tutta l'Unione Europea in base a quote predefinite. E poi però si giocherà tutto sul vil danaro. Questa è la conclusione mia sul vil danaro, cioè ci sarà questa multa da 250.000 euro se uno si rifiuta di accogliere i rifugiati, staremo a vedere. Invece la questione è più bassa come cifra, si tratta di 1.000 euro per ogni alunno disabile, che però sta facendo molto questionare, litigare e in Parlamento. Perché questa cifra è contenuta di fatto in un emendamento del governo, che prevede uno stanziamento di 12 milioni per i docenti di sostegno e le barriere architettoniche per i 12.000 bambini e ragazzi con handicap nelle scuole paritarie, quelle che si chiamavano un tempo scuole private, poi il termine non è corretto, scuole paritarie è il termine corretto. Per ora è solo un emendamento, come racconta il Corriere della Sera, ma trattandosi di una proposta del governo sembra destinata a diventare legge. Le scuole paritarie riceveranno un finanziamento di 1.000 euro per ciascun alunno disabile che ospitano. La polemica dov'è? È che il 5 Stelle si è molto arrabbiato, dicendo con un emendamento al decreto scuole belle il governo dimentica totalmente l'emergenza nelle scuole pubbliche, dove mancano insegnanti di sostegno qualificati, dove i ragazzi disabili spesso non vengono parcheggiati nelle aule abbandonate a loro stessi. Insomma, la polemica è la solita. Scuole pubbliche, scuole paritarie. Perché finanziare le scuole paritarie se non ci sono soldi per le scuole pubbliche? Avvenire, ovviamente Avvenire è molto interessata, un occhio di riguardo anche per le scuole paritarie. Molte delle scuole paritarie sono scuole cattoliche. Avvenire dedica una pagina a questo tema con il titolo Disabili nelle paritarie, 12 milioni per il sostegno. L'emendamento del governo alla legge del Senato per le associazioni è un primo passo, ma non basta, cioè ne vorrebbero di più. Quindi, come vedete, dal punto di vista da cui la vedete, chi dice ma come, uno scandalo perché sono soldi alle paritarie e non alla scuola pubblica, e chi come le associazioni che gestiscono le paritarie dicono non è abbastanza e quindi ce ne vorrebbero di più. Comunque potete farvi un'idea leggendo sia il Corriere della Sera sia Avvenire su questa vicenda. Mentre salto sulla stampa, c'è un interessante articolo di una pagina, Paolo Baroni, solo la stampa dà questo ampio risalto a questa notizia. In Italia vietato costruire nuove case. È una pagina dedicata alla politica e all'ambiente. Riguarda la discussione alla Camera della legge che vuole azzerare entro il 2050 il consumo di suolo e le regioni dovranno incentivare i comuni a promuovere il recupero degli immobili dismessi. Paolo Baroni racconta che l'obiettivo è proprio questo di quella legge, azzerare entro il 2050 il consumo di suolo, impresa non facile se si considera che oggi in Italia vengono cementificati 7 metri quadri di suolo ogni minuto. Una superficie che nell'arco di una giornata corrisponde a circa 80 campi da calcio. La legge è quella sul contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato. E ora è al primo giro di boa perché entra oggi alla Camera. E darà oggi la stessa Camera il primo via libera. Poi ci sarà il Senato, ovviamente, ma una pagina interessante dedicata a questo tema la trovate sulla Stampa. Mentre, attenzione, io lo so che se aprissi i vostri portafogli troverei tante banconote da 500 euro. Peter Bescapè, soprattutto il tuo, non guardare quello di Lorenzo Nespoli, cominciamo dal tuo. Tante banconote da 500 euro, quelle fruscianti. Lorenzo me ne fa vedere una da 5 euro, mancano, aggiungi due zeri e prova a spacciarla qua al macellaio di fronte, vediamo se ti becca. Comunque, attenzione, perché proprio oggi, racconta Repubblica, Tonia Mastrobuoni, potrebbe esserci l'addio alla banconota da 500 euro, quella soprannominata in gergo Bin Laden, perché è considerata la banconota più utilizzata da riciclatori di denaro sporco, le mafie, spacciatori, trafficanti di armi. Potrebbe avere le ore contate, racconta Repubblica, la Banca Centrale Europea potrebbe decidere di abolirla oggi. Ovviamente non è che da oggi chi ha una banconota da 500 euro, state tranquilli, non è che da oggi vi tolgono 500 euro, no. Ci sarà magari uno studio come si potrà convertire, eccetera. Ma insomma, si vuole fare questa mossa antiriciclaggio e forse la Banca Centrale lo farà proprio oggi. Ma siamo all'articolo che mi fa più sorridere della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. E lo troviamo su Il Fatto Quotidiano, a pagina 8, dove c'è una foto apparsa su un profilo Facebook di un baby boss. In questa foto questo baby boss è in ospedale, fasciato, è di Napoli, ha 16 anni, è stato colpito da un paio di proiettili al braccio e fa il dito medio. E fa il dito medio, in questo articolo si parla della vendetta social del baby boss, il dito medio perché pubblica tutto su Facebook con il messaggio infami, mi avete solo graffiato, ma noi cammineremo sempre a testa alta. Mentre voi l'avete solamente quando camminate con gli infami, come voi. Ecco, succede anche questo. Ferito dai rivali, dall'ospedale posta su Facebook la minaccia, infami, solo un graffio, e tutti che gli dicono avranno quello che si meritano nei commenti, e lui, già sai, già sapete. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan. Rende interessante anche la lettura del... No, questa non la pubblicate. No! Cara ascoltatrice, va bene, dai, va bene, alla prossima andrà meglio. Allora, tutti i nostri ascoltatori, Luca da Lugano, che ci segue sempre dalla Svizzera, un altro ascoltatore da Zurigo, cioè, ma quindi anche noi svizzeri, giustamente non ci avevo pensato, noi svizzeri dovremmo pagare 500 euro ogni volta che entriamo nell'Unione Europea, cioè in Italia, per esempio. Non lo so, intanto è un'ipotesi allo studio, però è molto interessante. Voi, siccome siete più ricchi, 1000 euro ogni volta. Scherzo, cari ascoltatori, ma insomma, che ci seguite dalla Svizzera, non lo so, è allo studio questa cosa. Dai, magari con voi facciamo un accordo separato, vi facciamo uno sconticino, 450 euro e via. Basta che non ci pagate con le banconote da 500 euro che forse oggi, furbettini, forse oggi verranno abolite. Allora, l'arresto del sindaco di Lodi che sta terremotando ancora il dibattito politico. Simone Uggetti, Partito Democratico, arrestato per un bando per la gestione di due piscine comunali, affare da 100.000 euro l'anno. L'accusa, come scrive il Corriere della Sera, turbativa d'asta, cioè quella di avere in qualche modo pilotato l'appalto verso due società di queste piscine. Arrestato insieme anche all'avvocato consigliere della municipalizzata Asteme dello Sporting Lodi, la società che si è aggiudicata la gara lo scorso 2 aprile. Tutto è partito da una segnalazione di Caterina Ugge, che lavora nel comune di Lodi, ed è la sua strenua resistenza, come racconta Sandro De Riccardi a pagina 4 di Repubblica, è quella di una dipendente comunale a svelare il tradimento dell'alta funzione attribuita dai suoi cittadini al sindaco di Lodi Simone Uggetti. È la ferma volontà della responsabile del settore sport e turismo, Caterina Uggenne, a rifiutare di firmare un bando sulla gestione delle piscine di Lodi, a fare scattare, dopo la presentazione di un esposto e su richiesta del PM, gli arresti per il politico del PD e l'avvocato Cristiano Marini, consigliere dello sport in Lodi. Insomma, è la vicenda di un classico whistleblowing, no? Soffiare nel fischietto coloro che dall'interno di un'amministrazione o di coloro che all'interno di un'azienda denunciano qualcosa che non va, un'ipotesi di illecito. Ed è scritto a pagina 4 di Repubblica che questa funzionaria che ha denunciato mi disse a un certo punto il sindaco: tiriamo dentro anche tua sorella, cioè cercò di convincerla ad firmare questo appalto dicendo tiriamo dentro anche la società che gestisce mia sorella. Insomma, un tentativo di circuirmi, questo c'è scritto nella denuncia. Sta di fatto che questo arresto ovviamente riporta la questione politica al centro. Renzi per il momento dice la reazione deve essere prudente. Certo, dal verdiniano Danna c'è questa frase molto secca, e cioè: la magistratura sta assediando il governo, è in atto un'offensiva della magistratura contro premier e governo. Così Vincenzo Danna del gruppo ALA, cioè i verdiniani. Sta di fatto che però Renzi è prudente. A chi dice c'è una questione morale, dice non c'è alcuna questione morale. Però frena un po' tutti coloro che vorrebbero in qualche modo parlare contro la magistratura. E Goffredo De Marchis, a pagina 3 di Repubblica, racconta un po' gli umori all'interno del Partito Democratico. Certo, se li mettiamo tutti in fila, si lascia sfuggire Renzi con i collaboratori, cioè da Tempa Rossa, l'inchiesta sul presidente della PD Campania, ora Simone Uggetti. Sembra un assedio, qualcuno si sfoga al Nazareno, sede del PD. Un altro come Vinicio Peluffo dice ce n'è una alla settimana. Qualcun altro scrive il Messaggero, dice quanto manca da qui al referendum confermativo? 150 giorni? Beh, inquisiranno, indagheranno 149, almeno a Ferragosto i PM si riposeranno. Insomma, c'è una sorta di clima d'assedio. Non detto così, ma la sensazione un po' è quella. Anche Matteo Salvini attacca, lo fa sul Corriere della Sera, intervistato a pagina 5, dice: beh, Renzi, se mette in fila tutte le persone indagate del PD, ne ha un centinaio in questo anno, forse qualche domanda dovrebbe farsela. Mentre la Lega, a chi ci accusa, non siamo più quelli della Tanzania. Chi ci attacca così è messo male. Noi quell'epoca l'abbiamo rottamata e archiviata. Ma attenzione, dice Salvini, fino alla condanna chiunque è innocente. Ma che farebbe lei? Beh, in alcune città del sud io non presento la mia lista. Per precauzione. Mi dicono, guarda che abbiamo 3 o 4, 5 mila voti. Amen. Se non posso fidarmi, salto un giro. Così Salvini che attacca. Mentre Raffaele Cantone viene intervistato dall'Unità, l'Unità che titola oggi Nessuna lezione sulla legalità in prima pagina. Raffaele Cantone, capo dell'anticorruzione, viene intervistato da Claudia Fusani, dice: la questione morale riguarda tutta la classe dirigente. È inquietante che fenomeni di malaffare emergano in continuazione, anche se diversi caso per caso. Ormai non è questione di appartenenza politica, dice Cantone, il problema investe tutta la classe dirigente. È innegabile che il PD sia più esposto, visto che amministra così tanta parte del paese. Questo non è una giustificazione, ovviamente, perché chi governa deve avere più anticorpi rispetto a certi rischi. Dice Cantone: ritengo ci sia una questione morale che investe la classe dirigente del paese. Non lo so se a Renzi farà piacere, credo proprio di no ovviamente, la battuta di Iena sulla Stampa, pagina 3. Annunci! I prossimi comizi del PD si svolgeranno durante l'ora d'aria. questo Iena sulla stampa. Oh, ieri invece è rispuntato Mario Mantovani. Mario Mantovani, ex assessore alla sanità, arrestato, conclusi per lui i domiciliari, e dovrà rispondere ovviamente al processo, si è ripresentato in aula, scatenando una bagarre. Il Movimento 5 Stelle che ha esposto striscioni, fischi, insulti, è dovuta intervenire la Digos in consiglio regionale della Lombardia, chiamata dal presidente del consiglio regionale Cattaneo a un certo punto, perché i grillini non volevano far parlare Mario Mantovani. A un certo punto una grillina, la Carcano, dice: mi ha dato della puttana, lo denuncio. Questo l'accusa. Mario Mantovani, per la verità anche lo stesso Salvini, nell'intervista al Corriere in cui parla anche di Renzi, dice: forse Mantovani ieri poteva fare altro, poteva occupare meglio la giornata invece che ripresentarsi in consiglio regionale. Capisco la voglia di gridare la sua innocenza, ma credo che invece andare in consiglio avrebbe potuto occupare diversamente la sua giornata. In ogni caso, Mario Mantovani invece torna, dovrà rispondere alle accuse, ma intervistato dal giornale da Stefano Filippi dice: sono un po' frastornato, i grillini hanno fatto una canea, una strumentalizzazione elettorale. Beh, ma l'accusano e la contestano di essere stato liberato per una questione formale. Dice Mantovani: non è stata rispettata la legge e un giudice l'ha rilevato. Sempre la legge prevede che in casi come il mio il reintegro avvenga automaticamente. Dunque non ci penso per nulla di dimettermi dal consiglio regionale. Insomma, io poi dice: sono innocente, vabbè, questo ci sarà un processo, la mia sarebbe una fuga, io vado avanti. Insomma, canea e digos al consiglio regionale della Lombardia. Sono cose che capitano, come direbbe anche il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno Alessandro, mi compiaccio, sei tornato a farmi precedere da queste notizie su indagati, rinviati a giudizio, malaffare di varia natura, insomma. Succede quindi spesso in Italia, rassegnati. Sì, vedo però che c'è questa coincidenza di cui comunque si occuperà il mio avvocato, bene, naturalmente, come d'abitudine. Ti voglio dire invece, tu dovresti occuparti, potresti occuparti della bustola che riportiamo nelle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore di oggi a proposito dell'andamento dei titoli bancari che, come hai rilevato appunto già dalla prima pagina, ieri sono stati pesantini, si dice nel gergo finanziario, nei listini azionari in borsa. Quindi, cari risparmiatori, che facciamo? Non delle banconote da 500 euro, ma delle eventuali titoli delle banche, ecco, c'è questa bustola di aiuto sul Sole 24 Ore di oggi. Tra l'altro, con il Sole 24 Ore, uno speciale di 16 pagine sulle tasse sulla casa, fisco e immobili. Oh, devi sapere che praticamente sono 4 anni che ogni volta che si fa una manovra piccola o grande, una legge di stabilità, un correttivo di qualsiasi tipo, si toccaccia un po' la fiscalità immobiliare. Quindi è così. Tanto per far qualcosa, come dire, andiamo a toccacciare lì e allora riepiloghiamo, facciamo il punto sulle regole. Poi, importante, il testo sui rimborsi per gli obbligazionisti delle banche e anche la parte delle procedure esecutive, sai, se ne è parlato molto in questi giorni, se non hai seguito e mi sembra che tu sia stato distratto, leggi il Sole 24 Ore di oggi, pagina 5, c'è il punto perché il decreto è in vigore, attenzione, intanto che tu, come dire, ti occupavi di altro, di pinzillacchere, e invece entrava in vigore anche questo decreto. Hai visto che la pagella della commissione, insomma, è così, siamo sempre questi studenti un pochino… Un 6 stiracchiato almeno. Sì, ci hanno dato un po' un 6 di stima, mi sembra di capire. Comunque, Beda Romano spiega tutto da par suo. Invece, a proposito di Europa, Hollande non l'ha mandata a dire sulla trattato in corso. Hai letto sul Sole 24 Ore, leggi sul Sole 24 Ore, esatto. Il TTIP ha detto no, la Francia non ci sta. Quindi questo sarà un po' un motivo di gestione difficile della trattativa. Oh, ti voglio, molte altre cose ti vorrei dire, ma te ne dico due. Una, l'esame, le prove invalsi all'esame di terza media. Sì. Sai che non da quest'anno, potrebbero anche togliere dall'esame di terza media. C'è scritto sul Sole 24 Ore, anzi dirò di più, lo ha detto il Sole. Seconda cosa, qui Radio Fisco è in consultazione la bozza del principio contabile nuovo OIC24 per le immobilizzazioni immateriali. Riguarda i costi di pubblicità. Tu non hai capito, Alessandro. Io nemmeno, ma ti assicuro che la cosa è parecchio importante. Alessandro Milan, il giornalista Ciusi dell'informazione. E allora? Allora, alle 7:49 minuti, sì, effettivamente la tassa europea di cui si sta discutendo, la tassa per entrare nell'Unione Europea, non è di 500 euro, ho messo insieme la questione dell'abolizione della banconota, ma è di 50 euro. Tranquillizzo gli amici svizzeri. Allora, voi facciamo uno sconticino, sarà di 45 dovesse passare, va bene, non di 450. Se ce ne volete dare 450, per carità, tutto va nelle casse dello Stato, noi siamo felici, anche Oscar Giannino sarà felice. Allora, i migranti. A proposito di migranti, c'è un fatto di cronaca che mi ha colpito. Ne parla Libero, ne parla Il Giorno, che dedica una pagina a questo tema. I migranti in rivolta, succede a Reggio Emilia per la pasta troppo scotta in un centro per migranti di accoglienza. C'è il riso pieno d'acqua, la pasta scotta, ai migranti non piace, come racconta Daniele Petrone, il cibo della mensa, e così l'idea è quella, proporre un cuoco pakistano che sappia preparare piatti etnici a loro gradimento. La rivolta dei maccheroni è stata già soprannominata a Reggio Emilia. I migranti, mangiamo pasta scotta, è rivolta, arriva lo chef pakistano. O, per carità, si può considerare questa una notizia secondaria, c'è chi attacca a dire, beh, la Lega dice basta, hanno stancato, ma guardate che non è solo la Lega, come racconta Brunella Bollolli su Libero, raccontando questa notizia, pagina 13, perfino un assessore del Partito Democratico, Giacomo Bertani Pecorani, su Facebook si è sfogato così, l'aver pensato a una rimostranza simile, quando da mesi viene loro garantito un dignitoso vitto e alloggio, significa sputare sulla nostra generosa ospitalità. L'unica risposta che avrei dato è un sonoro calcio nel culo, altro che delegati e dialogo. Partito Democratico. E poi, scrive Libero, dopo le polemiche il messaggio è stato cambiato, dal sonoro calcio in culo si è passati a un sonoro no. Ecco, più sfumato, sonoro, no. Comunque, lo chef pakistano in arrivo. A proposito di fame, vi segnalo che parla sulla stampa Matteo Indice, lo intervista in prima pagina, continua pagina 15, il procuratore che in pratica ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione e ha fatto assolvere quel senza tetto che ha rubato due wurstel e un pezzo di formaggio. Non si condanna chi ruba per fame, perché la giustizia deve essere giusta. Parla Antonio Lucisano, il procuratore, che dice «Penso che questo Roman Ostriakov abbia rubato per fame, e la fame è una necessità». È assurdo mandare in galera un uomo per dei würstel. Due anni fa fece assolvere anche una persona che aveva rubato una lattina di birra da 60 centesimi. Lo ritenevo troppo insignificante per meritare un processo. Non vuol dire questo che ogni piccola ruberia debba rimanere impunita. Basta vagliare caso per caso. Gli uomini stanno lì apposta. Così parla intervistato. L'intervista la trovate a pagina 15. Della stampa. A proposito invece di intervista, non è più un'intervista ma è una storia, ma è sempre sulla stampa, ve la voglio segnalare. Alberto Aburrai e Gabriele Martini raccontano a pagina 11 la storia di Francesco Baranca, segretario generale di Federbet, organizzazione che riunisce una serie di bookmaker internazionali. Francesco Baranca è colui che dal Portogallo alla Romania anticipa i finali delle partite di calcio per svelare le partite truccate. Sapete che ci sono molte scommesse, un giro d'affari che la stampa quantifica mondiale sul calcio stimato in 1.000 miliardi l'anno, 1.000 miliardi. E Francesco Baranca è l'uomo definito con la sfera di cristallo. In realtà la sua missione è andare a caccia di partite truccate. era stato già tra i primi a denunciare il fenomeno del cosiddetto match fixing, cioè quando le squadre si mettono insieme e magari si mettono d'accordo sul risultato, sul numero di gol da segnare in una partita, perché si può scommettere anche su quello. Ed eccolo qui, vi svelo, dal Portogallo alla Romania, le partite truccate. La gola profonda del pallone. E vi segnalo questa storia sulla Stampa, pagina 11, perché è un qualcosa che secondo me andrebbe approfondito. Vi segnalo anche che Graziano Stacchio, il benzinaio veneto che sventando una rapina uccise il rapinatore, ora, scrive il giornale, chiederà 300.000 euro di risarcimento. Non ho avuto tempo di approfondire bene, se non nel titolo, il motivo. Comunque trovate la notizia pagina 16 del giornale. 300.000 euro di risarcimento chiede Stacchio. E rimango sul giornale per l'articolo scelto come premio della Carta Costa, cioè l'articolo più inutile trovato sui giornali a mio insindacabile giudizio. È un trafiletto, in realtà oggi parla la figlia di La Torre, uno dei Marò. La figlia di La Torre dice, Giulia La Torre, sono stata invitata da Maria De Filippi per prendere il trono gay di Uomini e Donne e forse a settembre lo farò. Ma chi se ne frega!